Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buona giornata, eccoci, finalmente è arrivato il nostro momento. Andiamo subito a sentire i titoli del nostro sommario. Capelli a prova d'estate. Fa caldo, bevi. Parlare in pubblico? Una prova difficile che si può superare. C'è chi li lava ogni giorno sotto la doccia, chi preferisce andare dal parrucchiere per una piega settimanale, chi li lava a giorni alterni. Insomma, tante teste e tante idee, ma oggi cercheremo di dare consigli a tutti per mantenere i capelli sani e quindi belli. Ci aiuta la dottoressa Matilde Iorizzo, dermatologa a Bologna e a Lugano. Dottoressa Iorizzo, buongiorno e bentornata. Buongiorno, grazie per l'invito. Dottoressa Iorizzo, iniziamo dai lavaggi. Parlo al plurale perché vuoi per il caldo, vuoi per i bagni in piscina, con la bella stagione si lavano di più e i lavaggi diventano più frequenti, direi in alcuni casi quotidiani. Allora, dottoressa, possiamo usare uno shampoo delicato? Sì, diciamo che uno shampoo delicato o comunque neutro è perfetto per tutti i tipi di capelli, ma non si deve pensare che perché è estate bisogna usare solo quello, quindi anche gli shampoo specifici, quelli per capelli colorati, per capelli grassi, vanno benissimo, non è necessario cambiare shampoo durante l'estate. E si possono usare tutti i giorni anche tutti quei prodotti che hanno un'indicazione più specifica? Non rischiano di impoverire troppo il capello? Beh, la cosa migliore è se si usano shampoo troppo specifico, magari anche talvolta medicato, è meglio alternarlo appunto con uno shampoo neutro senza particolari principi attivi. I lavaggi tutti i giorni fanno solo bene, anche sciacquare i capelli solo con l'acqua, ed è sempre meglio, se i lavaggi sono frequenti, diluire lo shampoo con acqua. Ecco, appunto, diluire lo shampoo metà shampoo e metà acqua, è questa la proporzione? Esatto, perché comunque molti shampoo contengono tensioattivi, cioè quelli agenti che fanno poi la schiuma, che alla lunga può danneggiare il fusto del capello. È vero, dottoressa Iorizzo, che lo shampoo andrebbe ben distribuito sul cuoio capelluto, invece noi di solito abbiamo un po' fretta e lo distribuiamo un po' a casaccio sul fusto del capello? Esatto, andrebbe distribuito soprattutto sulla cute proprio del cuoio capelluto, soprattutto se è uno shampoo medicato, se è uno shampoo antiforfora, altrimenti distribuirlo troppo sulle punte rischia di mantenere le radici grasse e le punte secche. Dottoressa Iorizzo, senta un po', io vedo molte signore in palestra che usano prodotti 2 in 1, sa, perché magari si fa più veloce, poi non pesano nella borsa. Ecco, io volevo chiederle, funzionano? Lei che cosa ne pensa? Ma diciamo che i prodotti 2 in 1 generalmente nella parte, diciamo, dello shampoo contengono un detergente neutro, quindi può andare bene ma non va bene in tutti i casi, quindi ad ogni persona diciamo il suo prodotto, anche se io personalmente preferisco uno shampoo e un docciaschiuma, sempre meglio dividere perché i capelli e la pelle non sono uguali. Non abbiamo parlato del balsamo, anche in estate bisogna utilizzarlo o possiamo farne a meno o utilizzarlo, che so, magari un paio di volte alla settimana? No, il balsamo va utilizzato soprattutto di estate, così come le maschere, perché bisogna pensare che il vento, la salsedine, tutte quelle condizioni climatiche che magari in inverno non ci sono, danneggiano il capello, tendono a sollevare le cuticole dal fusto, e quindi balsamo e maschera sono utili per ripristinare le condizioni ottimali del capello. Dottoressa Iorizzo, lei ha parlato del vento, del sole, del mare, ma noi siamo ancora al lavoro e spesso non ci rendiamo conto che i nostri capelli hanno un nemico di cui noi non teniamo conto: l'aria condizionata. È vero, perché chiaramente d'estate piace andare soprattutto nei locali, o chi ce l'ha è fortunato che ce l'ha in casa. L'aria condizionata purtroppo è dannosa per i capelli se utilizzata in eccesso, perché li disidrata, toglie l'umidità che è quella che li mantiene belli e sani, e quindi cerchiamo di starci il meno possibile. Però lei lo sa che molti uffici sono dotati, muniti di aria condizionata, quindi per le persone che vivono in ambienti per ore e ore esposti all'aria condizionata, il consiglio quale può essere? Andare magari insistere con qualche maschera settimanale? Esatto, qui mi riallaccio appunto all'utilizzo delle maschere. Ci sono tanti tipi di maschere, tra cui anche quelle nutrienti, magari abbondarne un po' di più nella stagione estiva rispetto all'invernale. La maschera si distribuisce, a differenza dello shampoo, sulla lunghezza del capello? Esatto, soprattutto sulla punta per cercare anche un po' magari di chiudere le doppie punte per chi ne soffre. Si sciacquano abbondantemente. Le nostre nonne consigliavano di utilizzare l'aceto per renderli più lucidi. Sì, l'aceto di mele è un fantastico rimedio della nonna per donare luminosità ai capelli, io approvo. Questo va bene per tutto, aceto di mele, certo usare il balsamico sui capelli sarebbe un delitto. Ecco, l'aceto di mele che è più leggero ma va bene per i capelli biondi, bruni, per quelli trattati, lo diamo a tutti? Va bene per tutti, chiaramente non bisogna abusarne, e magari chi ha i capelli grassi, un pochino insomma più pesanti, in particolare ne deve usare meno, perché altrimenti tenderebbe a peggiorare la situazione. Ah, quindi per il capello grasso si fa un pochino più di attenzione. Dottoressa Iorizzo, ci siamo fatti lo shampoo, abbiamo distribuito il balsamo, il capello si tampona, voi dite così, sì? Giusto? Invece di sì, solito giusto. Si vedono persone con l'asciugamani in testa che sembra che si strappino i capelli, voi dermatologi ponete particolare attenzione sul momento in cui i capelli vengono pettinati, perché lì quando sono bagnati, a parte che spesso sono pieni di nodi, ma i capelli sono davvero più fragili e quindi si può rischiare proprio di spezzarli. In questo caso lei consiglia spazzola o pettine? Allora, premetto che per evitare appunto i nodi mi riallaccio all'uso del balsamo. L'uso del balsamo evita questo problema, quindi di pettinare dei capelli bagnati pieni di nodi. Sì. Inoltre, utilizzare un pettine di legno a denti larghi anche proprio mentre si lava via il balsamo. Da sotto la doccia ci si può iniziare a pettinare. Senta, dottoressa Iorizzo, vogliamo aprire una piccola parentesi su mesh, colore, colpi di sole, tutto quello che noi donne utilizziamo per ravvivare la nostra chioma? Questi trattamenti snervano, indeboliscono i capelli che magari in questo periodo si preparano ad affrontare un periodo duro, che l'estate è un periodo un po' difficile per i capelli. Possiamo farli? Dobbiamo scegliere alcuni trattamenti, evitare altri? Come orientarci nella scelta? Allora, intanto bisogna dire che dipende dalla situazione, perché chi ha la necessità di coprire i capelli bianchi è diverso da chi vuole farsi qualche colpo di sole così per ravvivare la capigliatura. Sì. Quello che bisogna sapere è che il sole decolora. E quindi chiaramente l'effetto visivo di mesh o di tinture in estate sarà un po' diverso da com'è d'inverno, quindi magari non abusarne tanto durante l'estate, ma non abusarne tanto in generale, e se c'è la possibilità magari scegliere di fare un ennè piuttosto che una vera e propria tintura. Con l'ennè andiamo più tranquilli, dottoressa Iorizzo? Con l'ennè andiamo più tranquilli. Mi rendo comunque conto che in certe situazioni non è possibile fare l'ennè, quindi in quel caso ok alla tintura, ma senza abusarne. Si ricorda quando era piccola, sicuramente, che dopo le scuole, all'inizio delle vacanze, le mamme ci portavano dal parrucchiere perché ci facevano dare una bella spuntatina ai capelli per l'estate, così non si sudava, si rinforzavano. È un consiglio che possiamo dare anche ai nostri ascoltatori? Sì, è un consiglio che possiamo dare anche ai nostri ascoltatori, e io infatti lo consiglio, anche perché secondo me se il taglio è ben sistemato prima dell'estate c'è anche più incentivo a mantenerlo e quindi a occuparsi dei nostri capelli perché arrivino belli fino all'autunno. Ecco, e proprio in previsione dell'autunno io credo sia importante proprio cogliere l'occasione per ricordare ai nostri amici di casa di proteggere i loro capelli un po' come facciamo con la pelle, almeno ci auguriamo che il messaggio sia arrivato, proteggere i capelli dai raggi solari, perché poi se no in autunno ci ritroviamo a fare conti con capelli che cadono, sono fragili, pieni di doppie punte, e poi voi ci dite quello che è il conto che pagate per un'esposizione non adeguata. Allora, iniziamo a proteggere i nostri capelli sin d'ora, anche se non andiamo al mare, il mare e la spiaggia ancora sono lontani, per alcuni possono goderselo il fine settimana, ma dottoressa Iorizzo, 3 regole di protezione per i nostri capelli. Allora, assolutamente portare un cappello possibilmente di colore scuro, portarlo bianco è come non portarlo, perché appunto chi ha i capelli colorati così li protegge dal sole che li decolorerebbe, ma anche perché il sole è infiammatorio anche per il nostro cuoio capelluto, specie se uno magari soffre di calvizie o di problemi in cui il cuoio capelluto è più esposto. Inoltre, altri 2 prodotti secondo me molto importanti sono uno shampoo con filtri UV. Mi scusi dottoressa Iorizzo, questi shampoo a cui lei fa riferimento, c'è scritto in etichetta che proteggono? Diciamo che dovrebbe esserci scritto in etichetta. Io non faccio chiaramente nomi, ma le più comuni linee fanno gli shampoo, quelli che sono chiamati gli shampoo estivi, no? Bene. C'è la versione estiva e quelli contengono filtri ultravioletti e di solito hanno abbinati anche degli spray protettivi utili anche per chi va in piscina, perché il cloro danneggia il fusto del capello. Dottoressa, invece quelle specie di gel, creme, cose molto oleose, un po' spesse, che un tempo si usava, fino a qualche anno fa si usava, si vedevano delle teste tutte unticce in spiaggia e appunto proprio per proteggere i capelli. Invece lei parla di spray, abbiamo cambiato? Ci sono varie formulazioni in commercio, io parlo di spray perché secondo me sono i più leggeri. Sì. È ovvio che ci sono persone con capelli molto secchi, per cui devono usare prodotti più grassi. Sì, però la media, diciamo, delle persone può fare affidamento agli spray. Dottoressa Iorizzo, ci siamo detti tutto? Possiamo salvare le chiome allora? Sì, se uno segue le regole dette oggi direi che è tranquillo. Buona giornata. Grazie altrettanto. Il caldo inizia a farsi sentire, il bisogno di liquidi aumenta ed è lo stimolo della sete a segnalarcelo, per questo va sempre assecondato, ma se noi ci riusciamo bene, dobbiamo fare attenzione alle persone anziane che vivono con noi e ai nostri bambini che non sempre sono in grado di farlo. Nonni e nipoti, insomma, tendono a non riconoscere i segnali che il nostro corpo manda per avvertire che ha bisogno di reintegrare i liquidi persi. Allora, per non fare errori, ci facciamo oggi aiutare dalla dottoressa Laura Rossi, nutrizionista e ricercatrice all'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, che è tornata a trovarci. Dottoressa Rossi, buongiorno. Salve, buongiorno a voi. Allora, dottoressa, per fornire all'organismo i liquidi di cui ha bisogno è necessario, come ripetete voi medici, mangiare ogni giorno in abbondanza la verdura e la frutta, che sono alimenti particolarmente ricchi di acqua, e soprattutto bere circa 1,5-2 litri di acqua o di altri liquidi. Tutto è chiaro, lo sentiamo ripetere tante volte, ma per alcuni non è semplice, come per rimanere in tema, come bere un bicchiere d'acqua, perché spesso le persone in là con gli anni tendono a bere poco e la disidratazione per loro è particolarmente pericolosa. Iniziamo dai nonni, dottoressa Rossi. Sì, come ha detto giustamente lei, il problema delle persone adulte, delle persone anziane, è che sentono meno lo stimolo della sete. Ciò non toglie però che non abbiano le stesse necessità di una persona giovane. Quindi, a fronte del fatto che si ha bisogno di bere i famosi 1,5-2 litri al giorno, loro sentono di meno l'esigenza di bere, mentre i loro tessuti hanno bisogno della stessa acqua delle persone più giovani. Per cui bisogna fare particolarmente attenzione a questi gruppi di età che tendono a trascurare il fatto di bere, che per loro è importante tanto quanto per il giovane. Quindi anche se l'anziano fa poco movimento, anche se a casa, in una casa abbastanza fresca, noi dobbiamo ricordare ai nonni di bere acqua, 1,5-2 litri di acqua al giorno, cioè la stessa quantitativa necessaria a una persona adulta che svolge attività fisica, si muove, entra e esce di casa, ha una vita molto molto attiva. Sì. Andrei invece ai bambini. Con il caldo le mamme lo sanno bene che tendono a mangiare un po' di meno perché il caldo spegne un po' l'appetito. Diventa però importante che bevano il più possibile, anche per evitare forme iniziali, anche loro, di disidratazione che si verificano più spesso di quanto si pensi, vero dottoressa? Sì, è vero. Diciamo, la quantità di acqua sarebbe corrispondente al peso corporeo, quindi possiamo erroneamente pensare che un individuo piccolo, quindi un bambino, abbia meno bisogno di bere di un adulto che ha una massa maggiore. Nel bambino però il livello di idratazione dei tessuti è più elevato che nell'adulto, quindi i famosi 2 litri al giorno vanno bene anche per i ragazzini, certo non per il neonatino, insomma, certo. Però per un ragazzino di 10, 12, 13 anni ce ne vuole esattamente quanto ce ne vuole per un adulto, anche perché teniamo presente che i bambini si muovono anche molto di più degli adulti e quindi tendono a sudare di più, e il miglior modo per reintegrare le perdite di liquidi attraverso il sudore è proprio l'acqua. Questa sua risposta mi fa venire in mente un'altra categoria di persone che sono spesso preoccupate di reintegrare i sali minerali anche persi con la sudorazione, sono gli sportivi. Per lo sportivo, parliamo di sportivo amatoriale, una persona che fa regolarmente sport tutti i giorni o 2 o 3 volte alla settimana, ma deve anche confrontarsi con le temperature che adesso sono calde. acqua oppure è bene integrarle utilizzando magari delle bevande che funzionano da proprio integratori alimentari che restituiscono all'organismo rapidamente quello che ha perso durante lo sforzo intenso? No, diciamo l'acqua è la cosa migliore, perché l'acqua non apporta altro che se stessa e non fa altro che permettere di reintegrare l'acqua che si perde e i minerali che si perdono. Qualsiasi altra bevanda energetica addizionata con integratori, salini e via discorrendo apporta qualche altra cosa. E non, lo sportivo amatoriale, soprattutto lo sportivo amatoriale, non ha bisogno di altro che non sia contenuto già nell'acqua. Una cosa erronea è quella che si fa, è quella di non bere per paura di sudare troppo. Questo è un altro errore, perché più si suda e più è meglio, perché il sudore serve a regolare la temperatura corporea e ci fa sembrare l'esercizio fisico meno pesante, quindi si riesce a fare maggiormente ginnastica perché si suda di più, si sta meglio e si reintegra quello che si è perso. Ecco, questo vale anche per chi non fa attività sportiva. Ci sono persone che sudano molto abbondantemente e che hanno un certo imbarazzo a mostrarsi tutti sudati, allora si pensano, bevo un po' meno perché sennò vado in un bagno di sudore, ma questo risulta essere poi un autogol abbastanza pericoloso. Innanzitutto è pericoloso per la salute, poi se si suda lo stesso, sia se si beve che se non si beve, perché come dicevamo prima è un meccanismo, diciamo, che il nostro corpo fa per mantenere la temperatura corporea. Se fuori fa molto caldo, il corpo sudando raffredda la propria temperatura e, diciamo, riesce a mantenere il proprio equilibrio. La temperatura corporea è uno dei, forse è il processo metabolico che è meglio regolato, diciamo, nel nostro corpo. Quindi suderebbe lo stesso, indipendentemente dal fatto che beva o meno. Il fatto di bere gli permette di reintegrare quello che perde e di stare meglio, di non creare uno squilibrio metabolico. Ecco, questo lo sottolineiamo perché è molto importante. Dottoressa, ci sono delle acque da preferire in questa stagione o una vale l'altra? No, le acque sono tutte uguali e sono tutte anche uguali. Anche quella del rubinetto. L'acqua del rubinetto va benissimo, è pura, non crea nessun problema, non ha batteri dentro, via discorrendo, e va bene anche dal punto di vista del quantitativo minerale e via discorrendo. C'è un desiderio, diciamo, di gusto di preferire l'acqua minerale, per esempio effervescente, rispetto alle altre acque, ma non c'è nessuna preclusione all'acqua del rubinetto. Un accenno mi consenta di farlo alle acque a basso contenuto di sodio. Sì. Il miglior modo per evitare l'accumulo di liquidi e per fare molta pipì è quello di bere acqua, indipendentemente da quanto sodio è presente nell'acqua. Inoltre, tutte le acque sono diuretiche, quindi non è necessario scegliere un'acqua a basso contenuto di sodio perché sia più diuretica di altre. Un altro fatto proprio pratico è che se io tolgo lo 0,009% di sodio da un prodotto che già ce n'è a poco, quello che sto togliendo è veramente risibile. Liscio gasata per togliere la sete o per recuperare un po', no? di a tono. A seconda di come a uno piace. Non abbiamo una ragione fisiologica per scegliere l'una rispetto all'altra. L'aggiunta di anidride carbonica, la presenza, diciamo, di anidride carbonica anche non aggiunta, facilita un pochino i processi digestivi. Quindi diciamo che il gasato, diciamo, dovrebbe aiutare a digerire di più, ma insomma siamo veramente nell'ambito della ipersensibilità. Sì, infatti. Quando si ha sete, il caldo si fa sentire, cerchiamo le bevande fresche, addirittura in alcuni casi fredde, ma c'è chi dice che dissetino di più i liquidi a temperatura ambiente, addirittura caldi. Io non sono mai riuscita, lo confesso, a bere un tè caldo sotto il solleone, ma c'è chi dice che abbia un effetto veramente fantastico. Dottoressa, c'è un modo di dire? Con lei sul non piacere di bere una bevanda calda durante quando fuori fa molto caldo. Diciamo che non c'è una ragione fisiologica per la quale una bevanda calda dovrebbe dissetare di più o di meno di una bevanda fredda. È chiaro che una bevanda troppo fredda e quindi con una differenza di temperatura troppo forte rispetto al nostro corpo, rispetto all'esterno, può creare un problema, una congestione e via discorrendo, ma non disseta di più una bevanda calda rispetto a una bevanda fredda, anche perché una bevanda calda quando fa molto caldo dà senso di fastidio. Uno sembra che suda di più veramente e quindi magari si tende a berne meno, quindi io lo sconsiglierei, però insomma. Dottoressa, io la ringrazio per essere stato con noi. Mi piacerebbe anche, ma lo faremo prossimamente, aprire un bel capitolo a proposito di temperatura sul tè freddo e sul caffè freddo. Adesso si iniziano a vedere nei bar persone che chiedono il caffè shakerato, che sicuramente va inserito nel conteggio dei liquidi tè e caffè con un effetto in più perché tirano un pochino più su. Eh beh, ci sono dentro i nervini che sono associati al tè, appunto al caffè. Non stiamo bevendo acqua, come ha detto giustamente lei, stiamo bevendo un liquido, ci stiamo anche tirando un po' su perché c'è dentro la caffeina. E quindi questo non nuoce. Dottoressa Rossi, grazie per essere stata con noi, le auguro una buona giornata. A voi, grazie per l'invito. Alla prossima. Presto, alla prossima. Bene, bentornati. Adesso ci occupiamo, proveremo ad affrontare insieme con due esperti una situazione che a volte può metterci un po' in difficoltà. Parlare in pubblico, e le occasioni sono tante. Pensiamo ad una riunione di condominio, oppure all'assemblea scolastica, ma anche ad un incontro informale. Pensiamo ad una cena in cui non conosciamo bene i convitati, e anche lì può metterci un po' in imbarazzo, come ad esempio prendere la parola in una riunione in azienda tra colleghi. Le ragioni di questa difficoltà mista a paura sono tante: timidezza, timore di fare brutta figura e soprattutto il giudizio di chi ci ascolta. Allora proviamo a farci aiutare dai nostri esperti, ve li presento subito. Giovanna Rossi, attrice, docente ai corsi di public speaking. Buongiorno. Buongiorno. In realtà usiamo sempre parole in inglese, però cosa vuol dire? Di comunicazione in pubblico. Ecco. Corsi di comunicazione, e diciamo che aiutiamo chi deve affrontare il problema di trovarsi di fronte a una platea a parlare senza grossi intoppi. E ci aiuta anche il professor Giorgio Maria Bressa, che gli ascoltatori di Essere Benessere conoscono bene, ma vi ricordo che è docente di psicobiologia del comportamento umano all'Università IPU di Viterbo. Professore, buongiorno e bentornato. Buongiorno, grazie, bentrovati. Giovanna Rossi, come attrice lavorate molto, naturalmente io penso che per un attore salire sul palco, penso ad una prima, ci sia una grande emozione, sicuramente avete delle tecniche per tenere sotto controllo questa emozione, questa ansia, che sicuramente per una parte è positiva perché aiuta, ma in altre può tirare uno sgambetto. Certo. Sì, noi, nonostante si dicano l'attore, chi meglio di lui può parlare in pubblico, però poi quando siamo ai debutti o alle serate importanti, anche noi chiaramente grande emozione, ovviamente un po' è l'abitudine che aiuta e poi qualche piccolo accorgimento. Consiglio sempre uno stato d'animo rilassato, è vero che è difficile, però per esempio dico, prima di cominciare a parlare, un bel respiro profondo che, no, fa il punto della situazione, aiuta a concentrarsi e rilassa la muscolatura, perché poi quando si è agitati, no, mal di stomaco, la gola si chiude, trema un po' il corpo, e sì. Quindi riuscire a essere in uno stato d'animo rilassato è il punto primo per cominciare a parlare davanti agli altri, ecco. Professor Bressa, ma è timidezza, paura del giudizio degli altri? Che cos'è che ci fa sentire inadeguati, soprattutto quando dobbiamo parlare e non ce lo aspettiamo? Perché un conto è l'oratore, che se si prepara, a parte i primi momenti, avendo un po' così in mano il tema, il suo discorso, riesce in qualche modo a destreggiarsi. Invece è quando ci troviamo ad intervenire senza avere un copione, e lì le cose si complicano. È vero, ma credo che spessissimo manchi proprio l'esperienza di poterlo fare, cioè a partire dalla scuola, dove la possibilità di mettere a proprio agio talvolta è proprio completamente avulsa, perché l'interrogazione diventa una specie di interrogatorio, poi mancano delle occasioni nelle quali, che ne so, all'università l'esame si possa sostenere in termini di dialogo. I rapporti sono sincopati perché email, sms e quant'altro rende molto virtuale. Credo che esista veramente, forse più di altro, la mancanza di allenamento o di occasioni entro le quali provarsi, perché se non ci si prova rimane, cresce il dubbio di non essere all'altezza, e quindi, senza essere né un difetto né una patologia, c'è veramente una riduzione significativa delle occasioni da poter sfruttare per fare una verifica di quanto siamo abili o piuttosto intimoriti, o di che effetto possa fare una nostra affermazione. È tutto molto virtualizzato e sono decresciute proprio le possibilità di fare esperienza riguardo alla propria abilità a parlare. Allora, Giovanna Rossi ci aiuta un po' a fare esperienza. Questo non vuol dire che dobbiamo parlare a sproposito, però cercare nel quotidiano anche delle occasioni, un po' come si va in palestra. Perché è vero che l'abitudine fa tantissimo, è chiaro, uno è più abituato, quindi non è che non si emozioni, però magari sa meglio come gestire. Però per esempio a me capita, ho tanti colleghi che dicono quando io salgo su un palcoscenico e recito non ho nessun problema, quando devo parlare a una riunione di condominio per esempio ne ho molti di più. E io stessa mi accorgo che spesso quando mi dicono so legge al matrimonio, visto che sei attrice, no? E lì è molto più difficile, perché comunque secondo me anche il fattore platea ha la sua importanza, insomma dipende anche da chi ci ascolta. Però vale il trucchetto, e questo stiamo in alla nostra riunione di condominio piuttosto che quegli incontri lunghissimi tra i genitori, quando si va a scuola in questi incontri con i professori e in cui ci si sente, almeno io mi sento sempre in difficoltà come mamma, guardare magari qualcuno senza proprio prenderlo di mira, cercare l'occhio di qualcuno, lo sguardo per prendere un po' di coraggio. Funziona? Lo chiedo a tutte e due. Funziona, si tende a non guardare, no, quando si ha davanti una platea, perché oddio magari ci si distrae o magari mi viene più paura, e invece secondo me saper gestire lo sguardo dove va a prendere l'attenzione e anche monitorare la platea è importante, perché si capisce se è attenta, se sta seguendo. Spesso ci vengono anche degli stimoli positivi da chi ci sta ascoltando, no? Un sorriso, una cosa, ci danno quella forza in più per andare avanti. Professor Bressa, volevo sapere se anche lei è d'accordo su questo punto. Completamente. Spesso poi occorre anche chiedere un rinforzo. Io a lezione all'università, all'inizio dell'anno accademico, formulo una sola richiesta agli studenti, ed è l'occasione nella quale più frequentemente sono esposto a parlare in pubblico con una certa continuità. Fate quello che volete, ma non sbadigliate. Lo sbadiglio è uno degli elementi che, qualsiasi sia la provenienza, fame, sonno, notte in bianco, anche noia, perché no, mi destabilizza completamente riguardo la concentrazione. Allora, giustissimo quello che si diceva poc'anzi riguardo anche al ritorno, no, che viene dalla platea. In alcune circostanze, quando la platea è, tra virgolette, addomesticabile, come può essere quella di un gruppo di studenti, il richiedere appunto il non sbadiglio è un elemento di grande supporto a sapere che comunque vadano le cose, non ci sarà mai questo segnale che vedo che mi fa perdere assolutamente concentrazione, un piccolo trucco. Senta, professore, ma io avevo letto di questa ricerca che diceva che lo sbadiglio, che noi cerchiamo proprio di evitare di soffocare, ne avevamo parlato anche, adesso se ricordo, anche con lei, in qualche modo è un meccanismo che naturale per ossigenare il cervello. Naturalmente sì, però quando uno sta parlando, almeno a me personalmente l'idea che l'altrui cervello si stia ossigenando mi dà un fastidio assoluto. Giovanna Rossi, sul palco, stiamo allontanandoci un po', ma arriveremo poi a dei consigli pratici e mirati per chi ha difficoltà. Ma sul palco recitare con la coda dell'occhio in prima fila il signore, che è un classico a teatro, no? C'è anche chi russa a teatro, quindi anche se uno non guarda comunque sente russare. E lì sì, purtroppo sì è vero quello che dice il professore Guttissimo, perché contro la noia si fa fatica, no? Allora può essere magari uno spettatore poco attento, magari distratto, ma lo sbadiglio, il dormire proprio ci ammazza. Però anche il relatore vuol dire che è un po' noiosino, o no? Sì, infatti, ecco. Io dico sempre, ci sono delle tecniche per destare l'attenzione. Allora, vedete, bene. Una platea un po' addormentata, per esempio, un bel cambio di ritmo nel discorso, una pausa, no, che improvvisa un po', così, che destabilizza, perché uno dice oddio cosa sta succedendo, e poi riprendere, ecco, io l'ho risvegliata un po' l'attenzione. Il cambio di tono, proviamo a fare un cambio di tono, me lo faccia lei con la sua voce un po' impostata. Per esempio, io sto parlando così e a un certo punto improvvisamente cambio ritmo e quindi in questo modo richiamo l'attenzione su di me, per poi magari ritornare. Io dico sempre, quello che annoia è la monotonia, un discorso fatto, tutto uguale, tutto con lo stesso ritmo, mentre i cambi di ritmo che poi usiamo anche nella vita, perché nella vita non parliamo tutto uguale, no? Acceleriamo, certo, deceleriamo, cambi di volume anche della voce, no? Se la voce sta andando in cantina, a un certo punto alzare un po' il volume e il tono. Però stiamo parlando un po' di tecniche un po' specifiche, ecco, che vanno apprese in realtà non con grande difficoltà, cioè basta anche lì un po' di allenamento. Certo. Allora io penso, però prima bisogna farsi coraggio, e per farsi coraggio intanto iniziamo a pensarci. Professor Bressa ci aiuta tra poco con alcuni consigli, insomma, a lavorare un po' sull'autostima e pazienza se magari il nostro intervento non è più dei più brillanti. Può capitare a tutti, soprattutto dobbiamo anche cercare di mettere da parte quelle figuracce che a volte sono così difficili da dimenticare, che condizionano i nostri interventi futuri. Eccoci, siamo tornati insieme a parlare in pubblico. Devo dire che adesso che ci sto riflettendo mi viene anche un po' di ansia parlare. A me viene tutte le volte che si accende la luce rossa e sono in diretta, poi carburando, insomma, si va. Professor Bressa, torniamo. Timidezza, paura di far brutta figura, giudizio degli altri, ricordo di figuracce. Che cos'è che gioca di più? Sicuramente un po' tutto. Potrebbe risultare utile però cercare di definire quali sono poi i margini, appunto, di possibile cambiamento quando si trova, quando ci si ritrova con questa difficoltà. Alcune situazioni sono più complesse quando, ad esempio, prevale quello che viene chiamato evitamento, cioè se una persona che si rende conto di avere difficoltà di parlare in pubblico recepisce che il livello di soddisfazione che gli viene dal poter mandare una delega alla riunione di condominio, dal poter ritardare nel tempo una circostanza nella quale dover parlare per una ragione qualsivoglia, cioè si avvale del sollievo dell'ansia che diviene dall'evitamento, a questo punto i margini di cambiamento sono ridotti, perché purtroppo prevale la sensazione di benessere che viene quando può dire ah che bello, posso non farlo. Ecco, in questo caso diventa molto più complesso pensare di avere uno spazio di risalita. Sino ad ora abbiamo parlato, voi essendo Giovanna un'attrice e il professor Bressa un docente universitario, parlate di platea e parlate di interventi che in qualche modo sono preparati, però le occasioni quotidiane magari sono molto diverse, perché non abbiamo platee ma piccole platee, piccoli gruppi, oppure anche chiedere un'informazione al bar, insomma ci sono delle persone che hanno veramente delle difficoltà, anche se leggere, di timidezza quando devono improvvisare un discorso, quando sono tirati dentro ad una conversazione senza aspettarselo, e lì la paura può prendere il sopravvento. Professor Bressa. Parlare in pubblico, ma che sia appunto dall'assemblea di condominio ad una circostanza che ne so, appunto, perché è invitato dalla scuola, perché a parlare di chi sono, accidente, che cosa. Non le piacciono le riunioni scolastiche, no, mi sembra di cogliere. Uno deve però sapere di avere la struttura per la quale quello che va a raccontare ha una competenza minima. Sì. Si è diffusa in maniera assolutamente vergognosa, secondo me, la possibilità, dai talk show in poi, se vogliamo, di gente che non ha competenza precisa e che va a chiacchierare su cose di cui ha più o meno un'infarinatura o ha delle ragioni per le quali è motivato o è giustificato ad andare a parlare, e fa delle figure barbine perché in realtà non possiede l'argomento di cui dovrebbe parlare. Questo ha in qualche maniera poi abilitato l'idea che basta avere quattro idee in croce su un certo argomento e automaticamente diventi competente. Al momento nel quale ti esponi a mostrare la tua competenza, in realtà questa è molto modesta, ti accorgi di avere da un lato lo sbadiglio, dall'altro quello che russa, dall'altro ancora il profondo disinteresse, e a questo punto vieni fortemente demotivato. Ma il punto non è di come sei fatto tu, il fatto è che non sai minimamente, non hai competenza di un argomento per il quale sei chiamato a parlare, e allora è ovvio che ti demotivi e gli altri ti fanno i buh. Fine conti, una una corrida eterna, no? Diventa, tutti sono autorizzati a parlare di qualsiasi cosa semplicemente che gli sono passati vicini. Alla peggio ci sono le pentole che battono e vieni fischiato e non vai in finale. Se cominciassimo anche a selezionare proprio le persone competenti che hanno diritto di parlare delle cose, probabilmente molti non parlerebbero e molti dopo non si porrebbero il problema di non saper parlare in pubblico. Giovanna, volevo chiederle, i suoi allievi, le persone che partecipano a questi corsi di formazione aziendale, che cosa le chiedono, su che cosa insistono di più, dove trovano maggiore difficoltà? Problema comune è la gestione del corpo. Ecco, tantissimi dicono: io quando devo parlare in pubblico proprio sento il corpo irrigidirsi e quindi non so come fare, non so dove tenere le mani mi sudano. E queste sono le e poi è chiaro, perdo il filo del discorso. Beh, in quel caso c'è un discorso preparato, allora io dico una scaletta sotto, sì, non tutto il discorso perché si rischia la lettura poi, però una scaletta sotto anche solo come coperta di Linus, sì, aiuta. È una stampella psicologica, esatto. E poi è chiaro, tradisco l'emozione, cioè sono molto preoccupati spesso che l'emozione si veda, e io dico sempre: ma se uno si preoccupa di quello ha già finito di parlare, nel senso che bisognerebbe in qualche modo riuscire anche un po' a fregarsene, no? Si vede che sto sudando, pazienza, perché tanto la gente è più interessata. Se io sono il primo a esserne preoccupato, sicuramente verrà giù anche quello. Io mi ricordo una volta uscivo con questa mia amica che aveva i bigodini in testa, non voglio venire, non voglio uscire, eccetera, sì, eccetera. A un certo punto andiamo dal panettiere, dal pasticcere, e il ragazzo che serviva dal pasticcere, oddio, era uno che le piaceva, parlo di tanti anni fa, e quindi lei è emozionatissima: adesso come faccio? Questo si avvicina e lei dice: mi dà un chilo di bigodini, perché era talmente preoccupata di quello che le è uscito, chiaramente. Invece, insomma, forse bisognerebbe essere un po' più disinvolti e non concentrarci. Senta, però vedo, ho sentito da lei che il problema delle mani, di dove tenere le mani, perché se le incrociamo le braccia non va bene, atteggiamento di chiusura, perché esatto, siamo anche veramente bombardati da tutte queste indicazioni che ci dicono come mettere il corpo e come non, e poi alla fine uno non sa più dove stare. Queste benedette braccia come si mettono per non a penzoloni, non troppo gesticolanti, non incrociate? No, c'è stato tutto un periodo in cui si diceva gesticoliamo molto, no? Perché le mani aiutano, invece adesso si tende a dire gesticoliamo ma in maniera naturale, la propria gestualità è sempre la migliore, quella non eccessiva però neanche impalata. Anche lì è chiaro che se io comincio a prestare attenzione nella vita, come muovo, come tengo le mani, eccetera, allora piano piano prendo coscienza di dove andranno quando parlo, mentre il problema è questo, no? Che molto spesso uno non ha coscienza di come si sta muovendo, di come sta tenendo il corpo, le braccia, la testa, no? Spesso siamo un po' a capochino, sì, a volte col capo troppo alto. Allora fare un po' di esercizio sulla gestione del proprio corpo, la presa di coscienza del... Allora proviamo, siamo in chiusura, ciascuno di voi inizia a dare un suggerimento su cui invitiamo i nostri amici a lavorare. Professor Bressa. Se ci si riconosce di avere A, qualcosa da dire, B, sapere che quello che ho da dire può interessare a qualcuno, C, potersi correggere rispetto appunto agli effetti, bellissimo il discorso di prima appunto sulla abitudine a impadronirsi poi delle proprie capacità, allora messi insieme questi elementi ci si deve provare, e ci si può provare tranquillamente anche nella cena con gli amici, nei quali anziché assentire e consentire la maggior parte delle banalità che vengono dette, interloquire ponendo una posizione diversa, chiedendo e verificando che tipo di ascolto si riesce a ottenere, di lì poi è fatta, perché... Quindi facciamo le prove generali nel quotidiano, può bastare anche una cena con gli amici a misurarci. Ma proprio lì, nel quale proporti ad esempio con un'idea alternativa, con un pensiero alternativo, e verificare la capacità di poter essere ascoltati e quindi di ricevere da quella anche un conforto, senza necessariamente pensare poi dopo di dover fare, che ne so, un comizio di fronte a 100.000 persone. No, certo, iniziamo dal piccolo. Passo la parola a Giovanna Rossi. Allora, diciamo tre cose, proprio schematizzando al massimo: linguaggio del corpo, quindi paraverbale, voce, e ascolto proprio e della platea. Ogni tanto io suggerisco, guardate chi vi piace, no? C'è sempre qualcuno, l'amico che riesce a parlare così bene, tutti lo guardano, oppure l'oratore famoso anche in televisione, oppure l'attore. Osservatelo, cos'è che secondo voi su di voi fa presa, e magari provate anche con un po' di imitazione, no? Spesso guardando gli altri, quello che ci piace di quello, se proviamo a farlo, non saremo mai quello, però sono piccoli trucchetti che ci aiutano, ecco. Bene, il tempo a nostra disposizione è, ahimè, terminato. Ringrazio i miei ospiti, io vi do come sempre appuntamento a domani dopo il GR delle 11. Vi aspetto, non mancate. Intanto buonissima giornata da Nicoletta Carbone.